Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi noi siamo in diretta dal Vinitaly, allo stand della Regione Veneto, quindi se volete venirci a trovare siamo qui, ma il nostro numero verde rimane invariato, 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Andiamo a sentire subito il nostro sommario. Vino e sport. Istruzioni per una relazione salutare. Un salto in Beauty Farm per il tuo benessere. Weekend in coppia. Non cadere nella valigia. Bene bene, vino e sport. Qui con me il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, il nostro ospite fisso del venerdì, che per l'occasione si è trasferito al Vinitaly. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora, noi oggi decliniamo il binomio vino e sport in vari modi. Il primo, fare sport lungo le strade del vino. E qui chiediamo subito l'aiuto ai nostri amici da casa. Se abitate lungo le strade del vino, se le conoscete, chiamateci subito, 824 0024. Dottor Confalonieri. Ma quest'idea del binomio sport e strade del vino ci è venuta proprio perché è in linea con quella filosofia di benessere globale che cerchiamo di portare avanti lungo questo percorso dei venerdì, perché in effetti fare sport lungo una strada del vino significa fare bene al proprio corpo, perché si fa sport e lo si fa normalmente anche in modo molto tranquillo, molto rilassato, poi approfondiremo la cosa. Gustare e conoscere, quindi non solo gustare ma anche conoscere il vino e la sua storia e la storia delle persone che lo producono, e godere anche il più delle volte di panorami o di un contatto con la natura assolutamente straordinario. Quindi tre dimensioni del benessere attraverso un'unica iniziativa. Parlare però di vino e sport, dottor Confalonieri, vuol dire se e come inserire il vino nella dieta di uno sportivo. Oggi parola d'ordine, come sempre, è gradualità, ma esploreremo anche questo ambito. Dottore. Sì, lo esploreremo con un'attenzione rivolta a due fronti diversi, perché il vino indubbiamente va bene in dosi moderate, poi chiariremo il come e il quando, ma ci può creare due problemi in termini di effetto calorico. Ci si dimentica molto spesso che il vino ha un potere calorico enorme, quindi per coloro che tendono a controllare il peso o a perderlo, il vino rischia di diventare un nemico se assunto con dosaggi sbagliati. E poi il vino in funzione della prestazione sportiva, perché da un lato probabilmente può fungere da riduttore di ansia, però dall'altro lato riduce molte delle componenti fisiologiche e neuromuscolari in particolare che determinano la prestazione sportiva. Quindi attenzione al rapporto tra il vino e queste due situazioni. La parola d'ordine è le giuste dosi, esatto. Vero? Senta dottore, però noi oggi, e così vi introduco i prossimi ospiti, parlando di vino e sport, abbiamo visto che, come succede nello sport, anche nel vino si stanno affermando le donne. E in studio qui con me abbiamo Maida Mercuri, che è fondatrice delle Donne del Vino. Ciao sì. Maida, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, il vino, non possiamo dire si tinge di rosa, perché il vino ha diversi colori, no? Vino bianco, rosso, rosé, e poi ci sono... Il vino ha i colori che deve avere, certo, nella sua natura, no? Il bianco, il rosso o il rosato. Naturalmente essere servito da un uomo o da una donna fa quantomeno differenza nella gentilezza. Una volta era un mestiere che non esisteva per le donne, anche perché è un mestiere faticoso. Man mano, adesso possiamo dire che abbiamo già un ruolo ben definito nella società del vino, sia come produttrici, sia come dispensatrici di vino, sia come un tocco leggero al ristorante. Diciamo che ci siamo guadagnate veramente la presenza nel vino. Quindi la presenza femminile nel vino, ma noi abbiamo anche lo sport. E qui in studio con me io ho un oro, anzi abbiamo un oro, è Roberto Di Donna, oro ad Atlanta 96 e anche oro e bronzo, vero Roberto? Ciao, benvenuto. Sì. Buongiorno a tutti. Qui nella doppia veste di atleta, di sportivo, quindi, ma anche di amante del buon vino e del suo territorio, il Veneto. Esattamente, io ho la fortuna e il privilegio di vivere in Valpolicella, terra vocata a dei grandi vini, grande produzione di vini rossi, e ho la fortuna anche di praticare lo sport nella mia terra, nel senso che al di là della mia professione, che è quella di tirare al bersaglio, io pratico anche sport per mantenermi in forma e visto che sono un professionista nella vita appunto pratico lo sport, e la fortuna di poter correre e andare in bicicletta nella terra da Valpolicella, devo dire, è tutta un'altra cosa, dottor Compagnonieri. È quello che come si diceva il dottore qui. Aiuta anche lo spirito, insomma, oltre che il corpo. Allora Maida, io penserei di iniziare a percorrere le strade del vino. Alcune regioni sono particolarmente generose, proviamo a fare una mappa. Intanto aspettiamo le telefonate dei nostri amici che ci suggeriranno percorsi, iniziative, idee. 824 0024, o domande, vogliono sapere quanto e come inserire la dieta nella loro dieta da sportivi il vino. Maida. Allora iniziamo dalla regione che ci ospita, il Veneto, dove oggi c'è il Vinitaly in questa settimana, per cui terra vocatissima per quanto riguarda i vini, non solo per i vini, perché per esempio si può fare il giro del lago di Garda, si possono fare tutte le zone, per esempio c'è un vino straordinario che è l'Amarone, che è la Valpolicella, dove veramente si possono fare questi giri in bicicletta e di tanto in tanto fermarsi in queste aziende. Teniamo conto che queste aziende di solito sono sempre in dimore storiche, in posti molto belli, con dei personaggi spesso strani, pieni di passione, perché per fare il vino ci vuole la passione. Anche per fare lo sport. Abbiamo... È un altro parallelo fra questi due mondi, indubbiamente. Quindi noi dal Veneto, terra ricca di strade del vino, di atleti abbiamo visto. Perché... Di atleti, passiamo al Trentino, per esempio paesaggio straordinario, perché tu hai tutto intorno le montagne e se lo fai in primavera, per esempio, passeggi in bicicletta in questi campi che sono pieni di mele, pieni di fiori, pieni di vigne, con una cura estrema. Poi ti puoi fermare in qualche hotel a fare questi bagni di fieno, per cui c'è anche tutto intorno una cultura del benessere, dello stare bene, e sempre fermarsi in qualche cantina, capire come lavorano, assaggiare un bicchiere, non più di un bicchiere se vuoi continuare la giornata, e apprezzare quelle che sono proprio le diversità di queste regioni. Poi passiamo in Toscana, altra regione vocatissima, la Valle dei Chianti, bellissima. Nelle Marche c'è mare, montagna, c'è vino. Nella Marche della nostra Deborah Rosciani. Eccola, che è qua seduta vicino a me. E poi giù. E poi giù c'è la Puglia che sta emergendo da tanti anni, che sta lavorando con un grande criterio, con il mare, con i frutti di mare. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso spazio al benessere. Maida diceva in Trentino, ma anche in Veneto, noi sappiamo che nel nostro paese le beauty farm sono numerose e direi al top, offrono dei servizi e dei trattamenti magnifici per il nostro benessere, per il nostro relax, e il vino è entrato anche in beauty farm. Si parla di vinoterapia, ma noi ci facciamo raccontare tutto dal professor Aldo Bertelli, che è in linea con noi, docente di farmacologia all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. La vinoterapia, chi l'ha provata ne è davvero entusiasta, ma cosa la rende speciale? Io mi immagino bagni in tinozze di amarone, in pacchi di moscato, però forse no, fanghi. Cos'è la vinoterapia? La vinoterapia è una cosa piuttosto complessa, perché riguarda sia l'assunzione di vino in dose moderate, sia, come diceva lei, anche questi beauty farm, questi bagni in soluzioni vinose. Ma direi che la parte più interessante oggi è la presenza del vino nella dieta, e una volta, per quanto riguarda lo sport, la dieta degli sportivi, era guardato con sospetto la presenza del vino. Oggi invece è accettata, e ci sono anche delle ragioni scientifiche molto valide che a favore dell'assunzione di modi di trattare vino nella dieta degli sportivi, perché durante lo sport anossico, voglio dire i 100 metri, oppure lo slalom negli sci, dove c'è una forma anossica, produzione di forti quantità di superossidi, che i superossidi sono forme dannose per le cellule, soprattutto per le fibre muscolari. qualora ci sia la presenza di un componente del vino, che è il resveratrolo, che lei ha studiato molto, è un grande studioso del resveratrolo, sì? Fattori, ecco che c'è un vantaggio preciso anche nello sport dell'assunzione di vino rosso contenente resveratrolo. Senta, qua è uscito il farmacologo, ma professor Bertelli, io invece sono ancora affascinata, voglio che lei mi spieghi ancora un po' come funziona questa vinoterapia, massaggi, immersioni, quanto dura e a chi fa bene, per quale magari problema è indicata o quali benefici dà. Non vogliamo parlare sempre di problemi. È una storia molto lunga nel tempo, perché secoli fa, anni fa, usavano, quando si vinificava il vino, mettere i ragazzini con i piedi nel mosto, sì, o anche i non ragazzini, perché si diceva che preveniva la formazione di una forma che adesso non c'è più, sono dei geloni, sì, la formazione. Ecco, quindi già da quei tempi i ragazzini, anche non gli adulti, mettevano i piedi nel mosto perché aveva questa funzione di prevenzione su queste alterazioni vascolari. Ora i bagni nel vino, le soluzioni vinose. Ma rende bello il vino? Noi vogliamo sapere questo. Ma la pelle diventa più levigata, professor, sì, Bertelli? Perché favorisce la circolazione dei capillari, delle piccole arterie, quindi favorisce. Bene, perché qua noi abbiamo Maida Mercuri, che ha fondato proprio le donne del vino, e noi sappiamo, siamo sempre molto attenti alla bellezza, quindi benvenga la vinoterapia. Sì, uno dei piaceri più belli che io possa aver provato, oltre che bere vino, è bere sempre di qualità, perché se bevi di qualità bevi poco e hai la tua attenzione rivolta a quello che stai bevendo. Questo è un messaggio. Invece se tu bevi non importa che, ne bevi troppo e non ti piace, non ti interessa. Una delle cose più belle sono questi massaggi fatti con i vinaccioli, sì, e poi con le bucce. Li hai provati? Sì, eh? Professor Bertelli, lei che li studia, li ha provati? No, io non l'ho provato, l'ho provato da bambino. Vede, appuntamento alla prossima volta col massaggio. Però per quanto riguarda i vinaccioli, è vero, i vinaccioli sono molto ricchi di una sostanza che è il resveratrolo, che è la parte attiva, con effetti benefici sulla derma, sulla cute e anche molto altri. Magnifico. Professor Bertelli, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, grazie. Noi torniamo lungo le strade del vino, buona giornata a lei. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, ha sentito il... Quante cose sono... Fra le altre ha sottolineato un aspetto importante relativo al rapporto tra vino e sport, questo effetto antiossidante, per banalizzare il discorso molto, molto colto, molto specifico, fatto dal professor Bertelli, che in effetti aiuta soprattutto in fase di recupero. Quindi da questo punto di vista, anche dopo un allenamento intenso, dopo un'uscita in palestra, in bicicletta, a piedi, il bicchiere di vino rosso di qualità, come si diceva, perché questa educazione al gusto è estremamente, certo, importante da un punto di vista preventivo, sicuramente facilita il recupero e quindi si combina molto bene. Oltretutto c'è una grossa quantità di trigliceridi e di zuccheri, quindi si combina molto bene col pasto prevalentemente proteico che fa normalmente lo sportivo la sera. Direi che è un'abbinata assolutamente consigliabile. Andiamo nella provincia di Ancona e poi andiamo nella provincia di Vicenza. Antonello, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno a lei, che ha una voce dolce e accattivante. Grazie. Se tanto mi dà tanto, lei non c'ha bisogno del vino, dovrebbe essere già del suo, di natura sua. Ah, grazie, va bene. Antonello, e lei, sì, dove... Io sono un cicloamatore, abito a Iesi e quindi si può immaginare cosa posso fare io per il Verdicchio e tutte le colline, partendo da Iesi, si può arrivare a Maiolati, Cupra Montana e Monte Carotto, quindi tutta zona di Verdicchio Doc. Sì, però è anche di Rosso Piceno e da lì si può partire per andare verso Moro d'Alba, è una zona dove c'è un piccolo vitigno, 300-400 ettari, si chiama Lacrima di Moro d'Alba. Ecco, Maeda invece infatti diceva subito la Lacrima di Moro d'Alba, che la Debora è marchigiana, adesso non so di dove, poi magari me lo dirà lei, e poi si può andare verso il Conero. Mi infilo, Antonello, sono di Castelfidardo. Ah, ecco, stavo arrivando appunto da quelle parti. In famiglia non entra nient'altro che la Lacrima di Moro d'Alba. Ah, capito. Che come caratteristica ha, è un rosso molto... come vino, come caratteristica proprio principale, che ha questi profumi di petali di rosa passita. Non avevo mai fatto caso a questa caratteristica, ma la prossima volta lo annuso più attentamente, oltre che a gustarlo. Antonello, quindi lei sportivo, intenditore di vino, è quello proprio, è il nostro ascoltatore ideale, ma assolutamente moderato e poi gentile, si ricorda della Debora da dove viene, fa i complimenti alla Nico. Antonello è stato molto gentile. Facciamo dare ad Antonello un consiglio, anche se non ne ha bisogno, perché mi sembra che se la cavi benissimo, dal dottor Confalonieri. Sì, Antonello viene da una terra di grandi vini, ma soprattutto di grandi atleti. La zona di Jesi, si pensi soltanto alla Scherma, ha prodotto grandissimi campioni, si pensi a Roberto Mancini nel calcio, ma ce n'è un elenco, si vede che è una terra proprio adatta a produrre non solo i vini ma anche i grandi atleti. Come il Veneto, d'altra parte, bisognerebbe studiarla questa correlazione. Infatti, tra un terreno utile per il vino e utile per produrre grandi atleti. Al di là di quello, una sottolineatura. Il nostro amico è un cicloamatore, indubbiamente i percorsi della sua zona sono percorsi particolarmente impegnativi, perché c'è salite impegnative, discese altrettanto impegnative, quindi differentemente da gran parte delle strade del vino, che sono normalmente pianeggianti, che sono adatte anche all'amatore, a chi comincia, a chi non è particolarmente allenato, le strade che troviamo nelle Marche piuttosto che nella bassa Toscana sono strade già più impegnative, quindi potremmo scegliere anche la strada in funzione del nostro livello di allenamento. È veramente quasi un sommelier, giusto? Sì, un sommelier dello sportivo. Invece Roberto, Veneto, terra di grandi vini e terra di grandi atleti, e volevamo proprio cercare di vedere un parallelo tra chi produce vino e chi è l'atleta. Hanno dei tratti in comune sicuramente? La preparazione. Assolutamente, la preparazione, la motivazione, perché per riuscire credo in qualsiasi situazione bisogna essere molto motivati, il saper aspettare, gestire le vittorie ma anche le sconfitte, perché nello sport noi gestiamo le sconfitte e i vignaioli a volte hanno delle annate che non sono buone e devono comunque portare pazienza e non possono produrre dei grandi vini, la consapevolezza dei propri limiti, esattamente. Dunque credo siano tanti fattori in comune tra chi produce vino e chi fa l'atleta, e poi diciamo anche è anche una terra forse che porta a vivere in un modo anche equilibrato, proprio perché è una terra che offre molto, si vive in modo sicuramente più sereno rispetto ad altre zone, meno stressante, più tranquillo. Credo che siano tante componenti che poi portano comunque a delle eccellenze. Giorgio, dalla provincia di Vicenza. Eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. Ha sentito Roberto che cosa dice del Veneto? Terra magnifica, è equilibrata. Io ho sentito parlare prima di Cupola Montana, mi ricordo di aver bevuto là del vino di Visciole eccezionale, che non è anche vino, è un vino liquoroso. Comunque la mia zona è il Vicentino, è molto bello il Vicentino in modo particolare, i vini che ci sono qua, il Reciotto, il Gambellara, il Vinsanto, ci sono delle cantine lungo una strada in salita che va verso Selva di Montebello, che è sempre fatta apposta per corsi in bicicletta in salita, e io vedo anche gente che con degli sci, con delle rotelle sotto d'estate si allenano probabilmente per l'inverno. Io faccio il medico, quindi vedo questa strada in macchina, ma vedo anche gente che va su e giù. Lungo la strada ci sono delle cantine anche proprio là disponibili, anche di un buon livello. Quindi si coniuga anche qui la salita, lo sport. Salita un po' duretta, Giorgio? È salita un po' duretta, però ecco. Dipende, si può anche deviare verso destra, verso sinistra. Insomma, si fanno... Alla fine poi c'è anche un bel ristorante, c'è anche una chiesa, una chiesetta simpatica. Vale il viaggio e vale anche un po' di fatica. Giorgio, sì, grazie per essere intervenuto. Se vuole restare con noi, io devo dare i mercati e il meteo. Resta o va? Volevo segnalare anche le cantine aperte, che è una manifestazione che fanno qua periodicamente, perché si può passare per queste cantine e degustare anche i vini locali. Grazie, grazie Giorgio. Buona giornata. Ecco, ci siamo tornati insieme lungo le strade del vino per fare sport, è una buona occasione. Lo sport e vino vuol dire anche se e quando lo sportivo può inserire il vino nella sua dieta, ma parliamo anche di sport e vino perché sia nello sport che nel vino le donne stanno emergendo e vincendo. Abbiamo dei messaggi che ci suggeriscono percorsi come Non dimenticate la Franciacorta, percorsi stupendi nel verde collegati con il parco naturale delle Torbiere del Sebino, immersa nella cornice del lago di Iseo, ci suggerisce Armando da Brescia. Mentre un messaggio non firmato però ci manda in Marmolada, perché ci scrive: ricordi meravigliosi delle sciate estive in Marmolada seguite da pane, fragolino e speck. Andiamo a Claudio dalla provincia di Verona. Buongiorno. Buongiorno Claudio, lei ci suggerisce dei percorsi? Giornata. Io sono qua a pochi passi dalla fiera, comunque abito a Soave, sì. Zona proprio, sono in mezzo proprio ai vigneti, da una parte ho il castello e dall'altra sì. parte ho solo vigneti, non c'è più una casa, non c'è più niente, e ogni giorno faccio delle passeggiate in mezzo a queste stradine di servizio per i vigneti e vado scavalco e sconfino anche dalla zona del Soave, vado fino alle volte da una zona che c'è il rosso, che fanno il Valpolicella, fanno l'Amarone e altri vini rossi. Quindi così. Claudio, lei è un grande camminatore, ma sicuramente trovarsi in mezzo a quei vigneti l'aiuta. La filosofia del dottor Confalonieri, dottore. Sì, diciamo che abbiamo ascoltato qualcuno che andava in bicicletta, adesso qualcuno che cammina. Direi che proprio gli sport che possiamo fare sulle strade del vino sono poi questi: la mountain bike più che la bicicletta, perché spesso poi c'è il percorso sterrato o c'è la salita impegnativa, il cammino, eventualmente il nordic walking che adesso così si sta fermando, quindi il cammino con le racchette che aiutano a sostenere, a utilizzare anche le braccia per fare un esercizio più completo, lo ski roll evidentemente, e non dimentichiamoci, perché sennò qualcuno arriverà a punirci, anche le passeggiate a cavallo. Del cavallo parliamo poco, dell'equitazione ancora meno, ma indubbiamente questo può essere un abbinamento ulteriore: natura come vino, natura come cavallo e benessere attraverso questa attività. Roberto, tu avevi fatto un parallelo tra l'atleta, lo sportivo, e chi invece produce vino. Mi sembra che sia un aspetto interessante da riprendere per poi passare a un parallelo che volevamo sottolineare, quello tra sportive e donne produttrici di vino. Sì, lo volevo riprendere molto rapidamente per sottolineare due cose: il fatto che in entrambe queste attività ci sia una lunghissima costruzione per una raccolta che arriva tardi, si lavora tutto l'anno per la raccolta, non solo, si lavora per qualcosa che si vedrà anni dopo qualche volta, e questo è tipico anche dello sport. Io inizio una carriera e magari il mio risultato arriverà 3-4 anni dopo, e poi l'accettazione dell'imprevisto, c'è l'infortunio e c'è la grandinata. C'è l'annata in cui tutto è stato fatto bene, arriva il vino cattivo, c'è l'annata in cui ci si allena bene e va male la prestazione per qualcosa di imponderabile. Credo che dietro ci debba essere, sia nell'atleta che nel produttore, questa capacità di essere anche un po' filosofi, che dubbiamente li fa crescere più saggi. E le donne che vincono nel vino si affermano, come succede anche per le donne sportive, no? Lo sport è sempre più rosa. Maida, cosa abbiamo portato? Io ho lunga memoria, perché io ho iniziato 35 anni fa la mia storia nel vino, per cui 35 anni fa si erano guardate con spesso con indifferenza, con poca importanza, sì, come un sottoprodotto, no? E ho capito a un certo momento, dalle piccole cose, che abbiamo vinto la guerra, che poi non so contro chi sia questa guerra, ma che comunque abbiamo ricevuto un'identità in questo mondo, quando al ristorante il vino che ordina una donna viene fatto assaggiare alla stessa. Una volta tu ordinavi, donna, il vino e lo facevano assaggiare il marito. Diciamo che questi piccoli particolari mi fanno capire che abbiamo conquistato il rispetto, abbiamo conquistato la fiducia che possiamo, questo. Luciano, vorrei poi tornare alle cantine aperte, ma do prima la parola a Luciano, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno Luciano, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, con piacere intervengo per illustrare quella che è la mia esperienza. Io sono una persona che si occupa amatorialmente di accompagnare altre persone che me lo chiedono in ambiente naturale, quindi sia montano, eccetera. Ma quest'anno ho iniziato un percorso particolare, quello della conoscenza delle strade del vino e delle zone con le loro caratteristiche legate al vino. Per farvi un esempio, ho percorso la strada della zona di Arbusco, eccetera, quindi il lago di Iseo, eccetera, con tutti i suoi vini, la zona del Garda recentemente con i vigneti, gli uliveti e tutto l'ambiente del Bardolino, il Lugana, eccetera, ancora recentemente la Val Trebbia con i suoi castelli e le sue cantine, quindi abbinando dei percorsi naturalistici, ambientali, eccetera, con la conoscenza del territorio e sì, i suoi prodotti. L'Oltre Po e la Val d'Adige, ecco, per darvi un'idea, l'Oltre Po in programma sabato. Luciano, ci stiamo rendendo conto che questo viaggio all'insegna del benessere, dell'attività sportiva, lungo queste strade del vino, che sono proprio, possiamo paragonare ad una rete, no? Che ci mette proprio di nuovo a contatto con il territorio, l'arte, la natura, il buon gusto e direi proprio quel benessere a cui tante volte, no, facciamo riferimento. Grazie Luciano per essere stato con noi. Buona giornata. Io vorrei, dottor Confalonieri, però aprire, quindi l'avevamo promesso, abbiamo detto che avremmo dedicato un'attenzione particolare a come e quando inserire il vino nella dieta di uno sportivo. Perché facciamo un distinguo tra sportivo e non sportivo? È necessario o... Ma è necessario innanzitutto perché lo sportivo mediamente ha la necessità di stare molto attento al peso e quindi il vino porta facilmente ad un incremento di peso e quindi tutto sommato va controllato in questi termini. È necessario perché evidentemente un abuso di vino non si concilia con la salute, ancor meno si concilia con la prestazione sportiva che richiede una salute ottimale, ed anche perché il vino assunto prima della prestazione può comportare un ridotto rendimento sia in termini di concentrazione sia in termini di rapidità neuromuscolare sia in termini di vasodilatazione periferica, che riduce la disponibilità di sangue e quindi di ossigeno a livello muscolare. Questo in linea generale. Nella dieta dello sportivo, quindi l'abbiamo già detto, ci sta bene un bicchiere di vino, non di più, magari anche tutti i giorni, questo non è un problema, se lo inseriamo nella dieta, soprattutto a cena, va bene, anzi direi che è meglio fare così che non fare come fanno tanti, troppi sportivi, soprattutto giovani, che magari evitano il vino o l'alcol durante la settimana per poi scatenarsi nel weekend e quindi abusare di vino o anche, non ne stiamo parlando oggi, di birra o di aperitivi e quindi di superalcolici. Meglio poco tutti i giorni, un po' come lo sport, che tanto, troppo, soltanto una volta alla settimana, magari perché non c'è l'allenamento il giorno dopo. Ecco, io credo che proprio questa sia l'occasione per sottolineare l'importanza di educare anche i giovani al vino, un po' come si educano allo sport. Io qua ho uno sportivo d'oro, ho una donna sommelier, quindi molto attenta anche a quella che è la comunicazione nei confronti dei ragazzi. Le donne sono mamme, mogli, zie e quindi mandano dei messaggi molto importanti, perché avvicinare, preparare i nostri ragazzi ad una cultura del territorio, una cultura del vino e soprattutto una cultura della qualità, aiuterebbe molti di loro a tenersi lontano da degli atteggiamenti che si discostano molto da quello che era il tipico stile mediterraneo, con l'assunzione moderata di vino ai pasti. In linea con noi abbiamo il professor Emanuele Scafato, che è direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno, ben trovata. Come facevano a chiamarla? Quando parliamo di assunzione moderata di vino e soprattutto di educazione nei confronti dei ragazzi, vi siete impegnati, l'Osservatorio Nazionale Alcol ha lanciato più volte, no, dei dati allarmanti riguardo proprio a queste assunzioni eccessive e questi modi di assumere alcol che hanno i ragazzi. Professor Scafato, allora torniamo a noi. Penso che in occasione del Vinitaly, noi siamo qui ospiti del Padiglione Veneto, si possa magari lanciare un appello ai genitori a educare i figli alla moderazione, soprattutto alla qualità. Ma noi come Osservatorio Nazionale Alcol dai primi di maggio lanceremo una, diciamo, un'iniziativa per i genitori e per i figli. Come tutti sanno, io ho scritto un decalogo per i ragazzi e un decalogo per i genitori, perché molte informazioni non giungono nella maniera corretta e soprattutto molte famiglie non si attivano nel fornire informazioni sull'alcol. E devo dire che l'esempio anche che molti genitori danno non è tra i migliori, voglio dire. Certo. Il discorso è molto semplice. Per quanto riguarda i ragazzi, è chiaro che tutti quanti ci sentiamo giovani, quando si parla di giovani tutti quanti ci si mette in mezzo, ma quando parlo di giovani io parlo di ragazzi che hanno magari meno di 18 anni e soprattutto parliamo soprattutto delle ragazzine al di sotto dei 14 anni che ci destano molta preoccupazione. C'è una forte tendenza da parte di queste generazioni ad attuare quello che noi chiamiamo lo starring, cioè il fatto di sentirsi star della situazione e di mostrarsi in maniera provocatoria con una bottiglietta in mano, non avendo la disponibilità nel proprio organismo di metabolizzare l'alcol. Indipendentemente dal sesso, sotto i 15 anni, i ragazzi non dovrebbero essere educati a bere assolutamente nulla, perché l'alcol fa male, qualsiasi tipo di alcol. Quindi al di sotto dei 15 anni abbiamo un impegno preso con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo l'abbiamo già sottolineato. Esatto. I ragazzi poi crescono, assolutamente l'età fa la differenza. Magnifico. Crescendo, professor Scafato, è giusto educare i ragazzi a un consumo moderato e di qualità. Educare quelle abilità che consentono ai ragazzi di valutare se scegliere di bere alcol. Questo è già differente, perché prima si comincia a bere e maggiore è la probabilità di problemi alcol correlati. È il motivo per il quale l'OMS e tutte le strategie di prevenzione dicono: fate incominciare a bere le persone il più tardi possibile. Quindi questa è un'evidenza scientifica, non è integralismo islamico, chissà di che cosa stiamo parlando. Assolutamente, lei sa che noi andiamo sempre sull'evidenza scientifica, seguiamo assolutamente le indicazioni che vengono dalle ricerche, quindi mai al di sotto dei 16 anni, anche insieme a medici, anche al dottor Scafato abbiamo già spiegato perché, soprattutto perché è più difficile per l'organismo femminile metabolizzare l'alcol. Noi stiamo arrivando sopra, cioè parliamo dei ragazzi che per noi rimangono tali, maggiorenni, 18-20 anni, educarli alla cultura del territorio e alla qualità, sempre con la moderazione. Dottor Scafato, aspettiamo l'iniziativa e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Buona giornata. Dottor Confalonieri. Sì, è estremamente importante sottolineare, riferendoci a quanto diceva il dottor Scafato, proprio abituare il giovane dopo i 15 anni, dopo i 16 anni, all'idea di vedere il vino come un alimento, il vino come qualcosa da conoscere, da gustare, e non come fa la gran parte, il vino fondamentalmente come una droga, cioè come qualcosa che ti aiuta a raggiungere quell'euforia, quel benessere psicologico in modo artificiale, perché purtroppo il vino e l'alcol in genere dai giovani sono visti soprattutto con questo scopo. Abbiamo parlato di moderazione nel vino e anche un altro modo, un altro pilastro direi dell'educazione dei ragazzi e dell'educazione anche di chi ragazzo non è più è sicuramente lo sport. In questo possiamo approfittare anche di Roberto Di Donna, che può in qualche modo mandare un messaggio anche alle persone che si avvicinano. Sta salendo ora, lo vedo dalla postazione di Radio 24 alla regione, nello stand della Regione Veneto, il presidente Napolitano, e devo dire che è una grande emozione, vero Deborah? Sì, mi fai commentare con te questo evento? Sì, perché lo stiamo... È con il neogovernatore, tra l'altro, della Regione Veneto, ministro Zaia. C'è ovviamente tutta la sicurezza assemblata intorno al presidente, che si sta propinquando anche nel tavolo delle prelibatezze che è stato appositamente allestito per lui, naturalmente. Ecco. I vini non mancano, li degusterà il presidente, infatti. Sì, ci sono delle trecce di mozzarella magnifiche, forti. Tra l'altro gigantesche, anche io credo di non aver mai visto delle dimensioni di mozzarella di questo genere, non so tu. Forme di grano, prosciutto crudo, vedo gli asparagi bianchi. Infatti, è quasi un peccato essere qua, non essere dall'altra parte del vetro, però insomma. Perché non bisogna fare quelli che fanno la manina e salutano. No, non lo facciamo, siamo delle professioniste, non ci sembra il caso. Ecco, adesso anche i nostri ospiti, intanto lo stiamo vedendo, lui è molto sorridente. Come sempre, d'altronde. Grande stile. infatti. E niente, adesso lo stanno un po' circondando, ma credo più, che il suo sia un passaggio abbastanza rapido, perché poi in auditorium è fissato un altro appuntamento alle 12 con tutti i giornalisti, i cosiddetti quirinalisti. Quindi però quindi, voglio dire, gli ascoltatori di Radio 24 si sono sentiti questa diretta esatto, della visita del Presidente al Vinitaly, del Presidente Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica. Adesso credo che dopo lo stand della Regione Veneto sia previsto anche un giro in altri stand, forse qualcuno del centro Italia, l'Umbria, mi hanno detto, chissà che non facciano capire anche quello dell'Abruzzo. Però noi di Radio 24 l'abbiamo visto per prima, esatto. Questa fa la differenza. Adesso vediamo se magari ripassando magari ci viene anche a salutare. Noi proviamo, noi stiamo attenti, noi guardiamolo. Ti tengo aggiornata, Nicoletta. Bene, noi invece torniamo a parlare di attività sportiva. Roberto, sicuramente avvicinarci, non è mai troppo tardi per avvicinarci allo sport. E noi oggi suggeriamo di avvicinarci allo sport facendo qualche cosa di piacevole, cosa che suggeriamo, devo dire, in tutte le puntate, ma lungo le strade del vino può essere una cosa carina. E tu lungo le strade del vino vai, corri, vai in bici... Sì, assolutamente, io corro a piedi e faccio anche delle passeggiate in bici. Un aspetto che secondo me va sottolineato è che il legame tra lo sport, il praticare lo sport e bere un buon bicchiere di vino, sempre ovviamente con moderazione, è l'aspetto anche psicologico, l'aspetto diciamo di benessere mentale, no? Perché poi alla fine deve essere un piacere. Lo sport ha anche un aspetto ludico, di gioia, di divertimento. E lo stesso deve essere bere un bicchiere di vino. Bere un bicchiere di vino vuol dire sentire i profumi, vuol dire conoscere il territorio, vuol dire scoprire tanti aspetti che non sono solo quelli legati all'alcol o legati, anzi, forse credo che debba essere una cosa marginale. E io ho avuto il piacere di conoscere il vino perché quando ho vinto le Olimpiadi mi sono state regalate 200 bottiglie di vino per ogni regione, per ogni comune d'Italia, dell'Associazione della Città del Vino. E lì è stato un modo per iniziare a conoscere un po' le varie tipologie, i vari terreni, i vari aspetti, le varie regioni sono tanto diverse. E lì piano piano ho iniziato un attimino a capire, ad appassionarmi al vino. Dunque io bevo ovviamente poco per la mia attività, però come diceva prima Maida, un bere assolutamente di qualità. Bere il bicchiere di vino vuol dire, è chiaro. In Italia siamo assolutamente agevolati. Maida, vorrei provare a fare un gioco con te, che il vino ne conosci proprio a fondo, in tutte le sue sfumature, i profumi. C'è un vino che ad esempio rappresenta l'attività sportiva della corsa, uno della bici o il nuoto? Possiamo provare a scegliere tra i vini, o è una cosa troppo tirata per i capelli? Divertente, bellissima. Cioè, se io ti dico, ho anche un ascoltatore che ci ringrazia per aver citato il cavallo. Allora, iniziamo dall'equitazione. Qual è il vino dell'equitazione? Questo, attenzione, non vuol dire che dovete bere una bottiglia di questo vino perché andate a cavallo, ma proprio come un parallelo. Abbiamo fatto una puntata giocata sempre sui paragoni, confronti, paralleli. Mi potrebbe divertire questa cosa. Direi per il cavallo un bel rosso, bello, intenso, un po' invecchiato anche, di 4-5 anni, no? che abbia già dei riflessi granati, potrebbe essere un bel Nebbiolo, per esempio. Sì. Il Nebbiolo c'è in tutto il nord Italia, c'è anche su in Val Chiavenna, in Valtellina, della varietà chiavennasca, no? Sì. Questo così un po' già... come posso dire, che ti faccia un po' riflettere, no? Un po' già posato come vino. Posato. No? Per il nuoto, grande passione del dottor Confalonieri, cosa vediamo? Un vino fermo o con le bollicine? No, ha un altro vino fermo per il nuoto, mentre per la corsa io vedrei proprio uno spumante, uno champenoise. La corsa hai bisogno di essere proprio attiva, di avere questa vivacità delle bollicine in bocca, no? Che ti possa poi dare questo sprint, questa un po' di cattiveria anche nel correre, no? Mentre per la bici? Mentre per la bici un bel bianco fermo, anche un po' profumato, importante. Anche, ecco, io la bici, forse perché ci sono stata, penso sempre a questi bianchi trentini, a questi bianchi tipo un Gewürztraminer, no? Una cosa molto profumata, una cosa... anche un po' densa, anche un po'... Noi abbiamo qua un oro per Roberto Di Donna, che cosa vediamo qua? Cosa beveva cosa nei momenti prima di vincere l'oro, qual era il vino che ti appassionava? A dire la verità, mi sono appassionato al vino un po' dopo. Però se io giustamente devo... come ci ha detto il dottor Scafato, e questo lo ribadiamo. Esattamente, devo dire che un vino legato alla mia attività, che è un'attività di attenzione, di concentrazione, anche un po' di meditazione, ci vedrei forse l'Amarone, che è un vino che se ne beve poco, Maida? Però ecco, si degusta con tanta tranquillità. Si può abbinare anche un pasto, però è anche un vino proprio da meditazione, un vino che mi piace anche berlo ogni tanto la sera, così facendo due chiacchiere con gli amici, un mezzo bicchiere di vino. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, è stata una bella puntata, un piacere, avevo anche Deborah qua vicino che abbiamo recupera il microfono, c'è un passaggio di testimone, ma non di bicchiere di vino ancora, no, perché dobbiamo ancora per qualche ora essere noi vediamo ancora il presidente napoletano, che è ancora qua, si sta affezionando allo stand e non lo voglio lasciare. Come si fa? Come le trecce di mozzarella che abbiamo visto. Grazie, un saluto da Nicoletta Carbone, dal dottor Confalonieri, Maida Mercuri, Roberto Di Donna, grazie per essere stato con noi e io vi aspetto domani per questa casa non è un albergo. Buona giornata.